Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buona giornata a voi che ci state ascoltando, a Giorgio Mattei in regia alla parte tecnica e a Laura Vanossi in redazione. Andiamo a sentire insieme i temi del giorno. Disturbi dell'orecchio, come prevenirli, riconoscerli e curarli. Attenti all'acaro. La meditazione piace ai geni. Oggi parleremo di udito. Vi ricordo già subito il nostro numero verde 824 0024 e il numero per inviare i vostri messaggi al 349 238 6666. Ma prima voglio proporvi un piccolo quiz al quale leghiamo il consiglio di lettura di oggi. Cosa sono i turbinati? Tre opzioni: vasi sanguigni della vescica, formazioni ossee rivestite da mucosa che si trovano all'interno del naso, cellule della retina. La prima mail con la risposta giusta, naturalmente, che arriverà all'indirizzo esserebenessere@radio24.it riceverà a casa il libro. E allora affrontiamo il tema di oggi, parliamo di udito e devo dire lo facciamo un po' per metterci una pulce nell'orecchio, perché dato che normalmente il peggioramento della capacità uditiva non è doloroso, insomma noi non ci pensiamo e alla fine comunque il conto arriva e può essere anche molto salato. Quindi parleremo dei campanelli di allarme, ci sono, l'importante è prestare attenzione, di esami e di soluzione, oltre a tanti buoni consigli. Ci aiuta oggi il professor Alessandro Martini, direttore del reparto di audiologia dell'Università di Ferrara, che è tornato a trovarci. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Sono molto contenta che sia tornato a trovarci, e perché, professore, io inizierei a darci un appuntamento e allargherei l'invito anche a chi ci sta ascoltando, poi proveremo a capire se ci ascoltano bene. Domani infatti è la giornata nazionale dell'AIRS, che è l'Associazione Italiana per la Lotta alla Sordità. Gran parte degli ospedali italiani hanno aderito all'iniziativa e metteranno a disposizione nella giornata di domani le strutture di diagnosi e anche il personale medico e paramedico per una valutazione clinica gratuita dell'udito. Questo credo sia proprio una bella occasione. Ma professor Martini, ne approfitterebbe anche in assenza di disturbi? Sì, questa iniziativa dell'AIRS è molto importante, coinvolge ormai quasi tutti i reparti dove ci si fanno esami audiometrici d'Italia. Sì. Ed è importantissima proprio per permettere a quelli che hanno qualche dubbio o gli può venire in questa occasione per farsi un controllo dell'udito, perché come diceva lei all'inizio, spesso non ce se ne accorge, sono gli altri che ti fanno notare. Certo. Quindi se c'è questo dubbio, un esame audiometrico è talmente poco invasivo e che richiede un tempo relativamente breve che vale la pena sicuramente di farlo. Per conoscere gli ospedali che aderiscono all'iniziativa, sono più di 250, avete a disposizione un numero verde 800 066 763, attivo oggi e domani dalle 9.30 alle 22, oppure potete andare sul sito dell'associazione AIRS, è molto semplice, www.associazioneairs.it. Professore, allora però noi oggi cercheremo di capire con il suo aiuto come preservare e conservare, nel caso recuperare, l'udito. È possibile? Certamente, ci sono molte possibilità, sia farmacologiche in alcuni casi, chirurgiche o protesiche, che possono aiutare a recuperare l'udito. Penso che però potremmo anche vedere, durante questa chiacchierata, di vedere come evitare di perderlo. Questo è molto importante, perché professore, con gli anni il nostro udito perde qualche colpo. Un adulto su tre con più di 60 anni e un altro dato, il 50% sopra gli 85, riporta una diminuzione della capacità uditiva, che voi medici chiamate presbiacusia, giusto? Sì, esatto. Però questa condizione crea molto disagio, imbarazzo e spesso non si parla con il medico. Insomma, c'è una sorta di pudore, un timore, una sorta di vergogna ad ammettere che non si sente più bene come prima. Professore, è vero? Sì, è vero. Forse direi che è più vero nel maschio, nell'uomo, che nella donna. Mm. Forse anche per un problema banale di segno di invecchiamento, cioè la perdita di udito è data come un segno di vecchiaia. Sì. E quindi il riconoscere di averlo, portare le protesi, è certamente un segno che soprattutto l'uomo maschio che ha ovviamente meno capelli, per cui anche l'eventuale protesi si vede di più, lo porta a non farsi vedere, a non riconoscere che ha questo problema uditivo, con tutta una serie poi di problemi di vita di tutti i giorni. Insomma, fa orecchie da mercante. Invece noi diciamo ai nostri ascoltatori di rompere insomma il ghiaccio, di chiamarci 824 0024. Professore, non parleremo solamente degli anni come nemico del nostro, come nemici del nostro udito, perché il nostro udito può avere problemi a qualunque età e le cause possono essere anche diverse. Pensiamo all'infezione, ai farmaci, a dei traumi, ma anche alle forme genetiche che sono alla base di oltre il 50% delle sordità infantili. E professore, io approfitterei di lei per lanciare un'indicazione, un consiglio alle future mamme in ascolto, perché vorrei che lei le informasse sui rischi di alcuni comportamenti durante la gravidanza che potrebbero proprio compromettere l'udito del loro bambino. Professore. Sì, non sempre questi rischi sono evitabili, perché tra le cause che possono provocare un danno dell'udito durante la gravidanza vi sono certi farmaci. Sì. Certi farmaci che sono ototossici, tra cui alcuni antibiotici, possono essere evitati. Qualche volta non possono essere evitati perché possono essere dei salvavita, ma magari ritorneremo su questo fatto. Sì. Certamente alcune infezioni. Le infezioni più comuni che danno problemi di udito prese in gravidanza sono il citomegalovirus, che è abbastanza frequente come causa di sordità nel neonato. Altre come la toxoplasmosi, quella che si prende soprattutto dagli animali domestici. Ma anche l'esposizione al rumore molto forte durante la gravidanza può creare dei danni nell'orecchio del bambino, perché il bambino già negli ultimi mesi di gravidanza ha una coclea formata, quindi sente e sembra già cominciare a sviluppare anche alcune capacità di tipo, chiamiamolo, di tipo linguistico, di linguaggio, e certamente un danno in questa età, anche nella gravidanza, può portare a questo. Poi ci sono tutti i fattori genetici, anche quelli sono difficili da evitare perché sono molto frequenti le cause genetiche, però è importante che vengano almeno riconosciute subito alla nascita, in modo da non ritardare la diagnosi, che è importantissima in questo caso. Senta professore, ma chi ad esempio in famiglia ha casi di sordità, è giusto che sottoponga ad un test uditivo il bambino? Poi a proposito proprio di test uditivi ci sono delle novità. Sì, c'è soprattutto una ottima notizia che ha comunicato il sottosegretario Fazio, e poi il sottosegretario della Salute, onorevole Martini, ha ufficialmente dichiarato l'altro giorno nella cosiddetta commissione tra Stato e Regioni è stato definitivamente messo nei LEA, cioè in quei livelli assistenziali minimi, l'obbligatorietà di fare alla nascita lo screening uditivo. Quindi questo veniva fatto un po' a macchia di leopardo nei vari ospedali italiani. Invece adesso ora tutte le regioni italiane dovranno attrezzarsi per far sì che tutti i neonati facciano, tra gli altri test che devono fare per alcune malattie importantissime, anche quello dell'udito, proprio perché, visto che circa un nato su 1000 nasce con una sordità importante, questa è una frequenza troppo elevata se noi la riconosciamo tardi. Quindi questo è stato un atto del governo estremamente importante, quello di rendere obbligatorio lo screening uditivo alla nascita. Quindi lo faranno non solo quelli che hanno una familiarità, ma tutti i bambini. Solo nel 50% dei casi c'è una familiarità dell'udito, anche nelle forme genetiche, ma quindi tutti i bambini. In ogni caso è ovvio che se qualche bambino che è già nato e non ha fatto questo e c'è una familiarità o c'è un dubbio, il dubbio poi dei genitori è importantissimo. Noi proprio abbiamo visto anche a livello internazionale che quando una mamma, soprattutto le mamme ma anche il papà, hanno il dubbio che il bambino non ci sente bene, è bene che venga fatto un esame uditivo. E questo è possibile a qualsiasi età, anche nel neonato, anche in un bambino di pochi giorni, perché spesso hanno ragione. Professore, torniamo invece agli adulti. Abbiamo detto proprio in apertura che volevamo mettere una pulce nell'orecchio ai nostri ascoltatori per fornire qualche indicazione che li aiuti a concentrarsi sull'udito, a prestare orecchio a quei segnali che talvolta trascuriamo, anche perché in qualche modo ci adattiamo anche a sentire progressivamente meno. A quali segnali dobbiamo prestare attenzione, professore? sono soprattutto gli altri, come dicevamo, che ti fanno notare, guarda che non mi hai sentito, che ti devo ripetere, e spesse volte c'è un atteggiamento di sufficienza, ma perché hai parlato male, perché hai parlato, c'era confusione. Quando ci viene posto il dubbio che non sentiamo bene, è bene che questo udito venga controllato. Una volta ci si badava spesso quando si caricava l'orologio, adesso con gli orologi di oggi che non fanno più il ticchettio degli orologi di alcuni anni fa. È vero, non ci pensavo. In effetti il ticchettio ci aiutava. Però c'è una cosa che aiuta molto e molti pazienti vengono dicendo: quando io controllo il volume della televisione, vedo che devo aumentare le famose tacchette rispetto a qualcun altro. Ecco, allora, anche quello è un buon esame audiometrico. Se si vede che il proprio volume, per poter sentire comodamente, di cosiddetta comoda udibilità, è più elevato di quello di un altro, quello è un segno chiaro che il nostro udito, anche in una situazione silenziosa, tranquilla, come quella di casa, che quindi è la più favorevole all'udito, non c'è il rumore ambientale, non c'è il rumore della strada o di un ufficio, ecco, in quel caso vuol dire che noi non sentiamo bene. Anche qui è bene che a questo punto un controllo venga fatto. Quindi nella puntata di oggi cercheremo di darvi tutte le indicazioni per prendervi cura del vostro udito, per capire se funziona bene, a quali segnali dovete prestare attenzione e soprattutto per chi con il problema già ci convive, che cosa c'è di nuovo a disposizione. Il nostro numero verde è anche lui a disposizione, 800 24 0024, i messaggi 349 238 6666. Una mela al giorno. Non si vedono ma si sentono, parliamo di acari, sono infatti invisibili all'occhio nudo ma possono dare una serie di problemi. Ne parliamo oggi con il professor Attilio Bonner. Buongiorno professore. Buongiorno dottoressa. Ordinario di pediatria all'Università di Verona. Professore, io partirei con lei proprio dall'ABC perché vogliamo capire esattamente che cosa sono questi acari che noi non vediamo ad occhio nudo ma sappiamo esistono e soprattutto che cosa fanno. Sì, sono dei piccoli ragnetti che vivono sostanzialmente nei nostri letti. Hanno bisogno di un ambiente umido ed hanno bisogno di rimanere al buio e sono i maggiori responsabili delle patologie allergiche. Determinano infatti rinite allergica, ma soprattutto asma, e sono responsabili anche della dermatite atopica. Con alcune buone norme di comportamento è possibile ridurre le concentrazioni di questi piccoli ragnetti, di questi microrganismi nell'ambiente domestici e talvolta le reazioni allergiche quindi correlate alla loro presenza. Ci può dare qualche indicazione da seguire sia a casa che al lavoro? La nostra attenzione deve essere rivolta essenzialmente alla camera da letto perché, come abbiamo detto prima, si trovano essenzialmente nei nostri letti. Quindi è opportuno coprire il cuscino, il materasso e le coperte con dei tessuti barriera. Sono dei tessuti a trama molto fitta che impediscono il passaggio sia degli acari sia di quei piccoli frammenti di cute che servono per nutrirli. La cosa importante da ricordare è che questi tessuti, questi devono essere lavati ogni 6 settimane a 60 gradi, perché se non si fa così gli acari poi crescono al di sopra di questi teli. Altra cosa importante è non tenere nella camera da letto dei tappeti, ovviamente l'acaro può accumularsi anche in questi, non tenere delle poltrone o dei divani imbottiti dove potrebbe annidarsi nuovamente l'acaro. Professore, questi tessuti barriera sono come facciamo a riconoscerli? Allora, nella maggior parte dei casi, quando il tessuto è fatto bene, sul depth del tessuto c'è una fotografia dove si vede la trama molto fitta e dove si vede che l'acaro non può superare questa trama. Professore, lei ha dato alcune indicazioni specifiche sull'utilizzo di particolari tessuti, però tante volte facciamo le cose sbagliate. Vogliamo allora sottolineare quali sono gli errori più frequenti, le cose da non fare? Ah, certamente, questo è molto importante. Ad esempio, bisogna rivolgere la nostra attenzione dove c'è l'acaro. Ad esempio, cominciare a pulire, a passare la libreria. Non serve assolutamente a niente, ovviamente la libreria va pulita, ma per le necessità relative alla pulizia domestica regolare, non per gli acari. Nelle librerie infatti non ci sono acari, non ci sono acari sulle tende, quindi è inutile cominciare a tirare via le tende o a fare cose di questo genere. Altra cosa importante, la maggior parte delle persone sono convinte che utilizzando un materasso in gomma piuma o un materasso sintetico hanno risolto il problema degli acari. In realtà gli acari sono presenti nei materassi di gomma piuma in quantità maggiore rispetto ai materassi normali. Professore, riguardo all'abitudine di molte persone di umidificare gli ambienti, mi riferisco quindi alla camera da letto, è corretto o è sbagliato? Assolutamente sbagliato. Gli acari infatti hanno bisogno di un ambiente umido. L'ideale per la crescita dell'acaro è un'umidità intorno al 70-80% e di una temperatura intorno ai 21-22 gradi. Quindi chi è allergico agli acari non deve assolutamente umidificare la stanza. Professore, un SMS ci arriva da Michela. Dice che è sempre stata allergica, che è allergica, ma che ora è in attesa di un bambino, non sa quali farmaci usare. Quali consigli possiamo dare? Allora, la cosa più importante non è utilizzare i farmaci. La cosa importante è che cosa si mangia in gravidanza. Sono dati molto recenti. Si è visto, ad esempio, che seguire una dieta mediterranea, che non vuol dire pasta asciutta in quantità eccessiva, ma una dieta mediterranea è essenzialmente la frutta fresca, la verdura fresca, il pesce una volta a settimana, l'olio d'oliva, la pasta del pomodoro ovviamente, ma in quantità moderate. Come le dicevo prima, seguire la dieta mediterranea dimezza il rischio che una donna partorisca un bambino che poi diventerà allergico o asmatico. La cosa importante è l'attività fisica. In gravidanza poi ci sono dei farmaci che è meglio non utilizzare, ad esempio il paracetamolo recentemente è stato dimostrato aumentare il rischio di partorire un bambino che poi diventerà allergico. Poi un'altra cosa importante, in gravidanza è opportuno evitare l'uso dell'alcol, gli alcolici, perché anche questi aumentano il rischio di partorire dei bambini che diventano allergici. Ovviamente in gravidanza non si deve fumare. Professor Bonner, io la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Grazie. Grazie a lei. Buona giornata anche a voi tutti. Pronto soccorso. E noi torniamo ad occuparci del nostro udito. Proviamo a fare un elenco ragionato dei nemici del nostro udito. Invito anche voi da casa a chiamarci, a individuarli, a vedere quale nemico sospettate possa essere più aggressivo di altri per il vostro udito. 800 24 00 24. Abbiamo in linea con noi il professor Martini, che ci aiuterà e ci aggiornerà soprattutto anche sulle novità, ma abbiamo in linea Marco, ci chiama da Alessandria. Marco, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, sì, io sono di Alessandria, ho 45 anni, intanto complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo fare una domanda, penso banale, ma spero interessante. L'uso degli MP3, che sì, è molto diffuso nei giovani e tutto il resto. Io ho un figlio di 13 anni che non è fans degli MP3, fortunatamente. Sì. Però ho sentito che fa veramente male. E volevo sapere se è vero e in che percentuale fa male. E in che misura. Grazie Marco, che con la sua domanda ha subito accettato il nostro invito, che è rivolto anche a voi. Diteci secondo voi qual è il nemico del vostro udito. E Marco ha individuato, si domanda se possa essere l'utilizzo di questi MP3 molto utilizzati dai ragazzi, ma non solo. Professor Martini. Sì, la domanda è molto precisa e la risposta è purtroppo sì, sono molto dannosi. E c'è stata una recente pubblicazione della Comunità Europea, proprio di 3-4 giorni fa, che ha evidenziato il danno di tutti questi strumenti sonori che vengono posti dentro nell'orecchio, perché il problema è che vengono ascoltati non tanto in cuffia o in ambiente libero, ma con una sondina che viene posta all'interno del condotto, quindi molto vicina alla membrana timpanica. E se il volume supera il 50% del volume disponibile dell'apparecchiatura, in molte di queste questo crea danno, anche perché normalmente viene ascoltato per periodi prolungati. E un'altra brutta abitudine è quella di ascoltarlo per strada. Perché per strada, per superare quello che è il rumore ambientale, faccia conto un ragazzino che lo usa in bicicletta o in motorino, sì, deve alzarlo molto per poter sentire bene certo la musica. E quindi è da una parte lesivo per l'orecchio e dall'altra è molto pericoloso, perché non fa sentire un clacson, un segnale di avviso di qualcun altro. E quindi noi abbiamo visto recentemente parecchi incidenti, anche gravi, mortali, in ragazzini che erano in bicicletta o in moto e che avevano l'MP3 o uno di questi strumenti musicali e riproduttori, perché non avevano sentito un segnale esterno. Questo quindi poi fa tutto il problema di tutto quello che è il danno da rumore, perché il rumore è oggi il principale nemico del nostro udito, soprattutto è quello che noi possiamo evitare. Ma non solo la discoteca, che ormai è noto ad alta intensità stare delle ore, soprattutto prendendo alcolici o altri farmaci che sono eccitatori e quindi aumentano la predisposizione del nostro organo interno a subire il danno da rumore. Ma faccio un esempio molto banale, anche le happy hour, no, che stanno diffondendosi soprattutto nelle città universitarie, sì. C'è una rumorosità che è stata misurata di 100 decibel. Teniamo presente che sopra gli 85 decibel nell'industria è obbligatorio portare dei protettori. Quindi un ragazzo che sta esposto a 100 decibel per quelle 3-4 ore del mercoledì sera o qualsiasi altra serata che viene dedicata a questi happy hour ha un danno uditivo. Altro esempio molto banale, nei villaggi turistici, quando c'è il momento serale del karaoke, sì. Spesso l'intensità dei diffusori è talmente elevata che può produrre un danno anche perché ci si sta alcune ore a sentire questa musica. Però siamo immersi nel rumore, professor Martini. Suggeriremo poi ai nostri ascoltatori in qualche modo come schermarsi. È possibile senza dover fare una vita da eremita? Non è così facile, perché chi vive in alcune zone delle nostre città con esposizioni anche notturne che superano gli 80, 85, 90 decibel diventa difficile, certo, proteggersi. Certamente vi sono delle protezioni nelle case per quanto riguarda l'insonorizzazione, che sono però anche abbastanza costose. Quindi anche l'importanza sull'azione, sul convincere i comuni a far rispettare quelle che sono delle regole che loro hanno accettato sarebbe già una buona idea, estremamente importante. Professore, arrivano già numerosi messaggi, noi dobbiamo andare a sentire gli aggiornamenti dei mercati finanziari e il meteo. Voglio solo brevemente rispondere ad un nostro ascoltatore, Simone da Prato, che ci scrive a proposito di rumore: mi capita, quando sono in luoghi affollati e rumorosi, tipo pub o locali simili, di non riuscire a distinguere dal parlottio di fondo quello che mi dice la persona che ho a un metro di distanza. Non mi sembra normale, ma è una cosa di cui devo preoccuparmi. Professore, mi dica solo sì, no o ni. È un ni. O è un ni. Siamo tornati insieme oggi, puntata dedicata ai disturbi del nostro udito. Potete intervenire chiamando il nostro numero verde 800 24 0024, ma prima voglio aggiornarvi sui risultati delle ultime ricerche che hanno misurato gli effetti delle tecniche meditative e antistress sulla nostra salute. La notizia arriva dal Congresso Nazionale della Società Italiana di Psiconeuroendocrinoimmunologia e in linea con noi abbiamo il professor Francesco Bottaccioli, docente al Master di Medicina Integrata dell'Università di Siena. Professore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Professore, possiamo dire la meditazione piace ai geni? Che cosa avete scoperto? Ma guardi, abbiamo scoperto, abbiamo discusso uno studio molto interessante che viene dagli Stati Uniti, che viene dal gruppo del professor Benson, il quale ha dimostrato che le persone che meditano regolarmente, che quindi sono addestrate alle tecniche meditative, sono persone che hanno il sistema immunitario molto più attivo e regolato di altre persone. Questo diciamo che lo sapevamo, però la novità è che Benson è riuscito a misurare l'attivazione dei geni. Gli ascoltatori sapranno che i geni contengono le informazioni fondamentali nella cellula che dirigono appunto l'attività della cellula. Benson ha misurato l'attivazione dei geni nelle persone che meditano e in quelle che non meditano e ha trovato che nelle persone che meditano ci sono circa 2000 geni che si attivano in modo differenziale e differenziato rispetto ai non meditanti. Questi geni comandano l'attività delle cellule immunitarie, nel senso che le rendono molto efficaci nel contrastare i virus e le infezioni e al tempo stesso cellule che smettono di attivarsi quando non serve più e quindi ci proteggono da eventuali infiammazioni di ritorno. Professore, grazie per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Grazie a voi, arrivederci. E noi vogliamo a Bergamo perché ci aspetta Roberta. Buongiorno, 824 0024. Parliamo di udito insieme a Roberta con i consigli, suggerimenti e commenti del professor Alessandro Martini. Professore, Roberta. Buongiorno. Sì. Io volevo un consiglio per cortesia per mia figlia. Mm. Mia figlia ha fatto la sua prima otite a novembre dell'anno scorso. E questa otite però è una otite molto brutta, infatti abbiamo dovuto fare anche un tampone, è risultato positivo. Dopo questa otite comunque è stata sempre curata a distanza di 4 mesi, è stata sempre vista da un otorino e comunque mi hanno detto che probabilmente lei faceva delle otiti silenziose, non davano problemi di male, sì. E però comunque queste otiti c'erano. E quindi c'era un timpano con esiti in sclerosi ed atrofia di pregresse otiti. Adesso un mese fa mi ha rifatto un'altra otite, problema che si è c'è stata una perforazione inferiore della pars tensa. Mm. Mi consigliano l'operazione, volevo sapere un consiglio dal medico. Cosa potevo fare? Grazie Roberta. Professor Martini, tra i nemici del nostro udito spesso... Roberta, che età ha la sua bambina? 10 anni. 10 anni. Mettiamo anche le otiti. Il caso di Roberta può aiutarci anche così a esplorare questo campo. Sì, mi sono permesso di chiedere l'età, sì. Proprio perché le otiti sono un problema importantissimo nell'età pediatrica. I provvedimenti che vanno presi, per esempio l'intervento chirurgico, dipendono molto dall'età. Allora, i bambini, il problema del bambino nell'otite è l'evento patologico più frequente, il motivo più frequente per cui va dal pediatra a parte i controlli di normale crescita. Quindi ci sono dei bambini che hanno molte otiti in un anno, noi vediamo dei bambini che hanno anche 18-19 episodi di otiti in un anno. Mm. A parte il dolore e il fastidio, quello che notava la bambina della signora era che si forma poi del muco nell'orecchio e questo può dare una sordità, una diminuzione di udito importante, soprattutto perché spesso è bilaterale. Mm. E un'altra conseguenza sono i danni sulla membrana timpanica. Sì. La bambina della signora aveva 2 tipi di problemi, la perforazione, che di per sé è la più semplice da risolvere, ma soprattutto accennava a delle retrazioni, a delle cicatrizzazioni della membrana timpanica che possono coinvolgere anche la catena degli ossicini. Quindi nel caso della bambina, credo che sia della bambina della Roberta, che sia corretto pensare ad un intervento chirurgico. Quindi nel caso il bambino riferisca che non ci sente bene, che ha un fastidio all'orecchio, i bambini non esagerano mai, anzi tendono a mascherare i loro problemi, per cui è sempre bene che venga visto dallo specialista che segue le orecchie, perché molto spesso è necessario prendere dei provvedimenti terapeutici, farmacologici, le cure termali, ma qualche volta anche l'intervento chirurgico, proprio per evitare dei danni futuri che possono essere non facilmente riparabili. Professore, ho una batteria di sms che vorrei proporle in modo che lei possa dare delle risposte rapide e quindi accontentare i nostri ascoltatori. A proposito di bambini, ci scrive un ascoltatore: Giuseppe, è nata in questi giorni la nostra bimba. Come possiamo capire se la bimba sente bene? Perché per una neonata non si capisce mai se davvero ti sente quando la chiami o comunque richiami la sua attenzione. C'è un modo prima di sottoporsi ad un esame? Allora, nel neonato è abbastanza difficile, tanto che quel test che viene fatto neonatale, che sono le cosiddette emissioni autoacustiche, sì. È un test che non richiede la collaborazione del paziente, certo. E evidenzia le ipoacusie anche minime. Quindi se la bambina non l'ha fatto, non è facile accorgersi nei primi 3 o 4 mesi di vita. Nel dubbio però si può richiedere un esame, perché lei ha detto certamente. Che si può fare anche nei neonati, perché si fa in effetti, ma se la bambina non fosse stata sottoposta ad un esame e Giuseppe ha questo dubbio, meglio allora, togliersi. L'esame di screening è quello delle emissioni autoacustiche, sì. Nel caso il dubbio sia dovuto ad una familiarità, qualche cosa di più, può valer la pena di chiedere un cosiddetto ABR, i potenziali evocati uditivi, che è un esame anche questo assolutamente non invasivo, che viene fatto finché il bambino dorme, ma un bambino a quell'età dorme sempre, dorme per molte ore del giorno, quindi non occorre nessuna sedazione farmacologica, ed è un esame estremamente preciso nel determinare la soglia dell'udito, cioè non solo se il bambino sente o non sente, ma anche di quantificare l'entità della perdita per orecchio, cioè sia in un orecchio che nell'altro separatamente, ed è un esame che dura un 20 minuti, mezz'ora, e che viene fatto in tantissimi centri. Allora, rispondiamo ad Enrico che ci scrive da Modena, il suo sms ritorna anche nei messaggi di altri ascoltatori, perché come mi vi ascolta tutto il giorno con gli auricolari del telefono, possono esserci danni? Cioè, fa differenza ascoltare musica o solo parlato? No, è difficile che il parlato sia di un'intensità tale da recare danni. Un danno. Quindi il danno dell'auricolare non è mai stato dimostrato che questo causi una diminuzione di udito. Quindi direi che tutto sommato è più il fastidio di avere sempre qualche cosa nell'orecchio, nella testa, che non un danno, un calo di udito. Andiamo adesso a Gianni che ci chiama da Lecce. Gianni, buongiorno e benvenuto. Sì, sì, sì, sì, buongiorno. No, io sono da Lecce, chiamo da Brindisi. Sì. Praticamente io faccio il lavoro di motorista aeronautico, quindi svolgo il mio lavoro normalmente insieme a tutti dei rumori continuamente. Da un po' di tempo vorrei chiedere al professor Massini che avverto dei, come se ci fosse nell'orecchio un motore in moto. Diciamo di più quando la notte, insomma, sì, una poi, specie di ronzio forte, esatto, continuo. E poi secondo me anche hanno appurato che ho avuto un abbassamento di udito. Sì. È un'altra cosa. Diciamo che io questi rumori poi, anche se fortunatamente ancora riesco a dormire, si accelerano, come ho spiegato, quando lei nel silenzio. Allora, Gianni da Lecce che ci chiama da Brindisi, professor Martini ci dà lo spunto per parlare di questi rumori, ronzii, fischi, ne abbiamo parlato diverse volte, gli acufeni, possono essere un segnale che del nostro udito ammalato o sono un problema a sé stante? Allora, prima una rapida risposta all'ascoltatore. Lui fa un lavoro di esposizione molto importante a rumori, perché i motoristi dei aerei sono in genere colpiti da un danno uditivo. Quindi nel suo caso la presenza di questi rumori nell'orecchio sono probabilmente il segno di un danno dell'orecchio interno. Sì. E quindi è bene che faccia un esame audiometrico e che soprattutto porti dei protettori acustici durante il lavoro, perché per evitare una progressione del danno. Per quanto riguarda gli acufeni, questi possono essere un segno di danno uditivo, ma non sempre, non è il segno principale di un danno uditivo, soprattutto se sono bilaterali, cioè se li abbiamo uguali nelle due orecchie non necessariamente sono associati a un danno uditivo, possono dipendere anche da un problema della colonna cervicale, molti soggetti che hanno sperimentato in passato una tamponamento hanno un rumore che sentono dietro di sottofondo testa, e questo in genere non è legato ad un danno uditivo. Importante, diverso il discorso se sono monolaterali, cioè se sono presenti in un solo orecchio, allora sì, diventano un importante campanello d'allarme. Allora, soprattutto se poi questo soggetto, oltre ad avere un rumore in un orecchio, quando usa per esempio il telefonino, visto che lo usiamo tutti molto spesso, sente che c'è una differenza e preferisce usare l'altro orecchio, lì deve fare un esame anche abbastanza rapido, perché la causa possibile di questo danno può anche essere una causa, diciamo, importante. E quindi attenzione, dove avvertiamo anche il disturbo. Professor Martini, tra poco parleremo anche delle possibilità terapeutiche. Se abbiamo un calo dell'udito, che cosa fare? Chi ci viene in aiuto? Eccoci di nuovo insieme con Piera che ci chiama da Brescia. Piera, buongiorno. Buongiorno. Siamo qua, tutte orecchie, l'ascoltiamo. Allora, volevo chiedere, mio marito è affetto da otosclerosi bilaterale. Sì. Volevo chiedere, per mio figlio che ha 14 anni, devo fare delle ricerche o esami particolari? Grazie Piera. Professor Martini, una breve definizione dell'otosclerosi, per così rispondiamo poi a Piera. Allora, l'otosclerosi è una malattia molto diffusa in cui si blocca uno dei tre ossicini, la staffa sulla finestra ovale, per cui l'onda sonora che ha messo in movimento il timpano negli ossicini non viene poi trasmessa nella parte dell'orecchio interno dove ci sono le cellule e le fibre nervose, e quindi abbiamo come avessimo un tappo. È una malattia molto frequente, con una certa ereditarietà, almeno chiara nel 50% dei casi, e per cui vale la pena che il ragazzo faccia un esame molto semplice, un esame audiometrico, ma soprattutto la cosiddetta impedenzometria, il timpanogramma e il riflesso strapediale, che avrà fatto sicuramente anche il papà, perché è da lì che si vede se c'è questo blocco, e quindi si può fare una terapia, il non ne parlerei adesso, quindi no, certo, che sicuramente il suo specialista otorinolaringoiatra, un biologo, le potrà dare, per cercare se non altro di rallentare l'evoluzione di questo. Non lo farei con ansia, perché a 14 anni è difficile che sia già presente, però ripetere un esame ogni 2 o 3 anni, soprattutto se c'è una familiarità superiore a quella del solo papà, vale la pena farlo, costa così poco. Professore, vogliamo parlare degli approcci per poter recuperare la funzione uditiva? Abbiamo parlato, cioè la prevenzione sicuramente, interventi chirurgici sull'orecchio medio, impianti. Che cosa c'è di nuovo anche, professore? Intanto sottolineerei di 2 popolazioni che vanno seguite particolarmente. Da una parte gli anziani, perché sì, il non farli sentire vuol dire che alcune aree del cervello vanno proprio in atrofia e quindi è importante che vengano aiutati con una protesi, con quello che ci sarà necessario, oltre alla fascia dei bambini, perché nel bambino possiamo avere, come si diceva prima, il mancato o il ritardato sviluppo del linguaggio. Queste sono le 2 fasce da seguire maggiormente, perché poi l'adulto più fragili, si rende più facilmente conto e più facilmente da solo provvede. Lei accennava a che cosa fare, già accennava alle protesi acustiche, accennava agli impianti cocleari, che sono ormai un qualche cosa di ben stabilizzato nei casi pediatrici, bambino o adulti, in cui la protesi non è in grado di dare una sufficiente informazione. Le ricerche che cosa stanno portando? Qui io parlerei un po' però con tra virgolette. Sì, parliamo con le doppie virgolette. Sì, perché sono delle informazioni che non hanno oggi delle applicazioni, delle ricadute pratiche, perché quando si comincia a parlare di cellule staminali, poi moltissimi vogliono fare da cavie, vogliono sottoporsi a delle terapie che oggi sono solo delle indicazioni di ricerca. Sì. Allora, ci sono 2 approcci fondamentalmente nuovi, che sono da una parte le nanotecnologie, i nanofarmaci. Sì. Esiste un progetto europeo che si chiama proprio Nano Ear, cioè ear in inglese è orecchio, che studia l'applicazione di nuove molecole, anche farmacologiche, soprattutto per poterle far entrare nell'orecchio, per esempio semplicemente ponendole all'interno della membrana timpanica, quindi senza darle per via generale, quindi ridurre la quantità di farmaco e che arrivi direttamente nell'orecchio interno. Quindi più, con un'azione più mirata. Mirata, queste sono, lo dice la parola stessa, nano, cioè molto piccole, e a queste possono essere attaccati dei geni, delle piccole molecole farmacologiche, e i dati sperimentali sono estremamente interessanti. Si stanno studiando un certo numero, varie centinaia di molecole, e per esempio noi a Ferrara facciamo tutto lo studio sul possibile effetto collaterale negativo di questi farmaci. Il progetto dovrebbe, che è un progetto grosso della comunità europea, concludersi nel giro di 3 anni, e i primi dati sembrano dare dei dati molto interessanti. Un secondo aspetto è quello delle cellule staminali. Sì. Gli ascoltatori ne avranno sentito parlare, perché ogni tanto a livello... Ne abbiamo parlato anche con lei, sì. Sì, possono essere certamente un approccio. Questo perché... Purtroppo le cellule del nostro orecchio sono pochissime, le cellule che sono i cosiddetti detettori del suono, le cellule ciliate, sono poco più di 16-17.000, quelle vere, le cellule ciliate interne, sono 3.000-3.500, quindi rispetto ai vari milioni delle cellule olfattive o della retina, quindi un danno, quando sono danneggiate, essendo cellule nervose, possono non essere più in grado di funzionare, ma soprattutto di rigenerarsi. Quindi si è pensato a farle rigenerare con le cellule staminali, e proprio recentemente è uscito anche un lavoro italiano importante, che è in gran parte del nostro gruppo, insieme al gruppo del CNR di Pisa e poi altre collaborazioni nazionali e internazionali, sì, che ha dimostrato che nell'animale di laboratorio reso sordo con farmaci o con rumore, queste cellule iniettate per via generale arrivano nell'orecchio. Però questo non è oggi trasportabile sull'uomo, quindi... anche se questa ricerca è stata pubblicata sulla rivista più prestigiosa mondiale di questo settore. Ecco, non è Tengo ancora a disposizione. Assolutamente, noi non siamo in grado di dire quando questo potrà essere trasportabile nel nuovo. Certamente è un campo di ricerca estremamente interessante, perché apre delle finestre innumerevoli, che ci permette anche di conoscere di più come funziona il nostro orecchio. Però oggi non esistono terapie alternative a quelle che per fortuna già abbiamo. Certo. Professore, io la ringrazio molto per essere stato con noi, per averci aiutato a capire qualcosa di più del nostro udito e soprattutto come preservarlo, conservarlo. Professore, ci sentiamo presto, alla prossima, buona giornata. Grazie a lei e agli ascoltatori. Grazie ancora. E prima di chiudere diamo la risposta al nostro quiz che abbiamo dato all'inizio. La domanda era: cosa sono i turbinati? Avevamo tre possibili soluzioni. La prima, vasi sanguigni della vescica. La seconda, formazione ossea rivestite da mucosa che si trovano all'interno del naso. La terza, cellule della retina. In linea con noi per darci la risposta corretta abbiamo il professor Claudio Vicini, che è direttore del Dipartimento di Chirurgia Specialistica dell'ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì. Buongiorno professore. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Professore, la risposta giusta era? Formazioni ossee rivestite da mucosa che si trovano all'interno del naso. Bene, e di turbinati parleremo insieme al professor Vicini domani e anche insieme al dottor Nobili del Centro di Medicina del Sonno di Niguarda, perché i turbinati in qualche modo possono essere implicati nel russamento. Professor Vicini, è così? Assolutamente sì, contribuendo a ostruire il naso contribuiscono anche al russamento. Quindi domani noi avremo il professor Vicini, parleremo di russamento, ma adesso quindi grazie professore, noi ci sentiamo domani e adesso invece noi andiamo al nostro consiglio di lettura. Vediamo chi ha risposto esattamente. La risposta giusta ce l'ha mandata Mauro, che potrà ricevere a casa, grazie all'iniziativa di Internet Book Shop, il libro Il sonno e i suoi disturbi di Elio Lugaresi. Quindi Mauro è stato bravo, veloce e anche fortunato. In collaborazione con IBS.it. E allora per oggi è tutto, chiudiamo perfettamente in orario, un saluto, buona giornata, se russate o qualcuno accanto a voi russa io vi do appuntamento domani dopo il GR delle 11, non mancate, vi aspetto, buona giornata, saluti da Nicoletta Carbone.